Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Come tutti i sabato siamo qui tutti insieme appassionatamente per parlare di noi e dei nostri figli. In regia la parte tecnica, e anche lui appartiene a Questa casa non è un albergo, Giacomo Spunta, Gigi Borghi in redazione, e qui accomodato comodamente, non si dice così ma più o meno è quello che sto vedendo, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, genitori e figli all'ascolto. Diamo subito il nostro numero verde per intervenire, 824 0024. Lo do ancora prima di parlare del tema di oggi, perché sono certa che l'argomento della nostra puntata è un argomento di grande attualità, insomma uno di quegli argomenti che sta scaldando e animando le nostre conversazioni familiari. Parliamo di vacanze dei figli adolescenti. Alberto, tu questo problema non ce l'hai ancora, ma preparati perché loro fanno le richieste e noi dobbiamo dire sì, ni, forse, cercare di aiutarli a fare le scelte migliori, calmare anche un po' le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, perché a un certo punto questi ragazzini mettono le ali e sono come quei passerottini che fanno le prove di volo e vogliono andare via. E questo in realtà in questo proprio momento fa discutere molto i genitori coi figli, mette i genitori molto in apprensione, stanno chiedendo troppo, sono in grado di gestire questa autonomia, riusciranno a tornare sani, vivi, così come sono partiti dal loro viaggio. Insomma, paure dei genitori, a cosa dire sì, a cosa dire no. Guarda, sono proprio la mamma, perché per le mie stanno partendo, vogliono partire, una 17, una ahimè 19, per cui è già più grande. E le tue sono già grandi in realtà. Qua oggi avremo anche, credo, genitori di 14, 15, 16 anni che stanno davvero combattendo con richieste che solo 30 anni fa sarebbero state impossibili. È vero, ma quanto crescono questi figli? 824 0024, intervenite in diretta o scrivete al 349 238 6666. Intanto, come sempre, apriamo con la nostra pagina di Pensieri di Padre. Mio figlio Luca, 15 anni, da quest'anno ha detto basta alle vacanze che gli proponevamo con tanto entusiasmo. Siamo genitori che sono sempre stati attenti a scegliere mete dove lui potesse fare esperienze divertenti e interessanti. Di fronte alla sua richiesta di fare vacanza senza l'ingombrante presenza, a dir suo, di mamma e papà, prima ci siamo sentiti tristi. Poi abbiamo compreso che i figli bisogna lasciarli andare. Così gli abbiamo proposto il campo estivo di un'associazione ambientalista, essendo l'ecologia un tema che a noi in famiglia sta molto a cuore. Ma lui ha rifiutato e ha detto che quest'estate vuole andare a Londra a studiare la lingua. Parlandone con una mia amica, me lo ha sconsigliato vivamente. Lo scorso anno suo figlio ha approfittato di una vacanza studio all'estero per farsi un piercing e per fumare spinelli. Ora, sia io che mia moglie siamo spaventati. Non sappiamo cosa fare, dire sì o dire no. Tra l'altro, la vacanza è molto costosa e dovremmo fare non pochi sacrifici per potergliela finanziare. Ci siamo presi 2 settimane di tempo per decidere. Aspettiamo i vostri consigli. Allora, Alberto, un caso, un consiglio. Abbastanza impegnativa questa scelta. 2 settimane, quindi noi dobbiamo oggi proprio dare tutti gli spunti necessari perché loro possano scegliere serenamente. Diventiamo una comunità virtuale di genitori d'Italia, aiutiamo questo papà. Voi cosa fareste al suo posto? Secondo me nella lettera ci sono molti spunti interessanti. Un figlio che dice: è arrivato il momento di non fare più le vacanze con voi genitori. Ma per niente, questo voglio capire. Questa potrebbe essere una questione che mettiamo sul tappeto, lo mandiamo a Londra e poi gli chiediamo almeno una settimana stiamo insieme, oppure no? Voi che cosa fate? Bravissima, questa è un'altra questione. Ma io sono preparata, perché come? E credo un altro aspetto, c'è l'aspetto finanziario, dobbiamo finanziare in toto i progetti di vacanza dei nostri figli. Terrei comunque come idea le vacanze all'estero, perché qua c'è davvero una mamma che ha spaventato il papà, gli ha detto li mandi all'estero, non sai cosa succede là. Voi magari da adolescenti le avete fatte, voi avete magari mandato i vostri figli adolescenti a fare vacanze all'estero. Servono, non servono, imparano la lingua oppure no? Vi sono tornati a casa cambiati? In meglio o in peggio? Nel senso, avete visto solo piercing, tatuaggi o chissà che racconti? Che poi voglio dire, non è poi un dramma. Secondo me, se è fatto, se il tatuaggio, noi lo ripetiamo sempre, essere benessere, attenzione, con tutte le dovute, no? Io mi sento di... Io lo rivelo qua. Io sono stato un group leader. Io negli anni dell'università ho accompagnato davvero decine e decine di ragazzi in vacanza studio a Londra. Ho un'idea molto chiara sulle vacanze all'estero. Erano gli anni, Alberto? E parliamo di, direi, 20 anni fa. 20, allora, tra i 20 e i 25 anni fa. Quindi questa di nuovo è una buona domanda. Voi genitori che eravate stati all'estero per le vostre vacanze, adesso avete mandato i vostri figli... Trovate che questo progetto sia in continuità con ciò che avete vissuto voi oppure sono cambiate davvero tante cose? All'ascolto magari c'è un group leader che ci potrebbe raccontare, chiamando l'824 0024 dal suo osservatorio privilegiato, che cosa gli dicono e che cosa vede nei ragazzi che vanno all'estero. Alberto, quindi insomma c'è, come si dice, da lavorare e io direi che però è importante anche sottolineare, fare un distinguo in base alle fasce d'età. Esatto, cioè credo che, come spesso diciamo nella nostra trasmissione, ci sono non un'adolescenza ma tre adolescenze. Ci tengo davvero a ribadirlo, anche se a volte qualche ascoltatore mi scrive e mi dice ma lei Pellai da dove l'ha tirata fuori quest'idea? In realtà è in molti libri, ma credo che sia anche nell'esperienza di tutti voi genitori. Tra i 13 e i 15 anni il cervello dei nostri figli è in profondissima trasformazione, hanno bisogno di tantissima guida, supporto, a volte contenimento. Tra i 15 e i 17 anni è tempo di esplorazione, dai 18 anni in avanti dovrebbero aver fatto tesoro della loro esperienza e della loro crescita. Però ci siamo a questo punto fatti aiutare da un'esperta. E abbiamo in linea infatti Loredana Oliva, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Loredana, tra l'altro, è in linea con noi da Parigi, quindi stiamo andando in giro per l'Europa anche con i nostri esperti. Anche le mamme e i papà francesi si stanno interrogando su come e dove lasciar partire i loro figli? Ma assolutamente sì. Tra l'altro io adesso sono proprio a casa di amici dove ci sono dei giovani, dove ci sono degli adolescenti, direi, per essere d'accordo, così seguire il discorso di Alberto, che trovo molto interessante, della terza adolescenza. Quindi giovani che hanno, diciamo, sono già in uno stato di capire cosa hanno già fatto, certo, e quali sono le prospettive. Dunque, io ho diciamo un'idea. Non voglio, è un tema talmente delicato su cui non bisogna avere troppe certezze, perché è vero, tutti i temi che avete già messo bene in evidenza sono importanti e delicati. Lì, che l'esperienza del partire sia importante, cioè non posso assolutamente dire niente di diverso. Certo, bisogna un po' organizzarsi. Allora, secondo me la prima cosa da fare è soprattutto nelle prime due fasce dell'adolescenza, quindi quando i ragazzi sono molto giovani, trovare là dove loro vogliono andare, un luogo, una comunità dove ci siano degli interlocutori. Io ho visto che questo è molto importante, cioè avere un interlocutore che veramente è sempre uno. È quando i ragazzi sono giovani è giusto che i genitori possano telefonare e dire anche le loro ansie, perché sennò diventa un inferno per tutti. Certo. I cambiamenti ci sono, è vero, possono accadere delle cose che per i genitori sono spiacevoli, però bisognerebbe aiutare i ragazzi a pensare al viaggio come un progetto, e quindi mettere un progetto dentro il viaggio. Quindi lo studio di una lingua è sicuramente un progetto, fare un'esperienza dove si fa uno sport, si fa una competizione, è già un progetto. Mettersi a confronto con un'altra cultura dove ci sono tanti ragazzi e dove quindi si esce veramente dal proprio quotidiano è un progetto. Allora, essere diciamo padroni, tra virgolette, condurre il proprio progetto vuol dire già essere un po' responsabili, vuol dire che alla fine di questa vacanza bisognerà raccontare qualcosa, bisognerà aver fatto qualcosa, e questo secondo me mette già i nostri ragazzi in uno stato di essere più responsabili, trovo. Allora, in linea con noi ci ha raggiunto Enrico Franceschini, buongiorno. Buongiorno da Londra. Ma veramente siamo internazionali. Enrico Franceschini, inviato di Repubblica, appena pubblicato un libro, Voglio l'America, per Feltrinelli. E ha raccontato del viaggio che lo ha fatto diventare grande. Scrive sulla quarta di copertina: era l'America, era magnifica e c'ero dentro io. Ieri, parlando con Enrico, lui mi diceva: io il mio viaggio l'ho fatto praticamente alla fine degli studi universitari. Forse adesso i ragazzi si sono talmente precocizzati. Anticipano, Enrico. Ma immagino di sì. Questo dico, a me è il viaggio che mi ha cambiato la vita, perché in questo libro racconto in modo un po' romanzato appunto il mio sogno era fare il giornalista, sbarco in America senza sapere molto e imparo tutto, la lingua, il mestiere e cambio, comincio, e come dicevate voi, a diventare grande. Questa è appunto una storia che però ho scritto anche per i ragazzi di oggi, quindi per i ragazzi probabilmente più giovani di come ero io, che avevo 23 anni quando sono partito. Forse oggi queste esperienze di formazione, diciamo, si fanno a 20 anni, a 18 anni, a 16 anni. Naturalmente chi leggesse il libro, forse un genitore direbbe: non vorrei che mio figlio si ritrovasse in una stanza piena di scarafaggi da solo a New York, in un quartiere dove, come quello dove abitavo io, perché quando hai pochi soldi il mio si chiamava Hell's Kitchen, la cucina dell'inferno. Ma, Enrico, ma, però non lo dicevi alla tua mamma, immagino, no? No, questi infatti, particolari bisogna ometterli, perché se no... Mia mamma dicevo che stavo in uno splendido appartamento con vista sul Central Park, no, ecco, senza bisogno di dire balle troppo grosse, certo omettevo le parti più preoccupanti della vicenda. Però quello che penso, io ho sentito solo la fine di quello che dicevate voi prima, quando mi sono stato messo in linea, cioè fare delle cose, un viaggio... secondo me ti può cambiare la vita, come è successo a me, come racconto nel libro, quando desideri fare delle cose, quando desideri metterti alla prova, quando c'è un sogno di qualche modo, di genere che hai, quindi non andare solo così di qua e di là. Infatti questo Enrico lo sottolineava Loredana Oliva, cioè fare un viaggio con un progetto, Loredana. Esatto. Però io mi accorgo che spesso i ragazzi di oggi chiedono di fare un viaggio così perché pensano che sia dovuto, perché gli altri lo fanno, i loro compagni. Insomma, vedo che non voglio fare, c'è anche una nicchia di ragazzi che partono intanto per partire. Insomma, la progettualità, il desiderio, il fare veramente i conti con quello che si desidera e con quello che si vuole ottenere dal viaggio, non sempre avviene. Alberto? Sì, io proprio riprendo uno stimolo di Enrico Franceschini, cioè lui sognava l'America, è andato a cercarsela e lì si è dato da fare. Molti genitori adesso sono preoccupati perché un figlio vuole salire su un volo low cost, arrivare su un'isola dove fa cose molto simili a quelle che fa qua, sta lì per una settimana, poi torna a casa. E forse questo è quello che lascia un po' più preoccupati i genitori, proprio vedere figli senza un progetto. Cosa dice Enrico? Ma io dico che intanto forse è difficile... Più difficile oggi, ma era sempre difficile, avere dei progetti. Spesso io, la mia fortuna, come racconto nel libro, è che io fin da ragazzino desideravo fare il giornalista. Avere non un sogno, uno... guarda che è un grande, è un esatto, grande vantaggio. Dico che avere un sogno è un grande privilegio anche quando il sogno non si realizza, nel senso che almeno ti sei messo alla prova, ci hai provato, c'è qualcosa che comunque ti mette in moto. Ora, quando oggi forse è ancora più difficile averlo, però ci sono anche delle strade intermedie. Voglio dire, in Inghilterra per esempio c'è molto la moda del gap year, l'anno alla fine del liceo, o alcuni lo fanno alla fine dell'università, ma spesso anche alla fine del liceo, che è andare in giro per, invece che iscriversi subito all'università, fare 6 mesi o un anno facendo qualcosa, anche se non hai un sogno, basta che i genitori dicano vai a fare volontariato, non so, in un ospedale in Africa o in Asia, vai a aiutare l'irrigazione di campi non so dove, vai a imparare una lingua, vai, cioè aiutare a cercare che non sia un viaggio in autostop in giro per il mondo, che nel mio libro lo racconto, ma invece oggi sarebbe molto ma molto più pericoloso. Assolutamente. Perché ci sono pericoli in agguato che 30 anni fa, quando io dormivo sulla spiaggia di Los Angeles in un sacco a pelo, non c'erano. Ma è questo che si tratta, cercare di dare un progetto ai ragazzi. Però io voglio dire una cosa, io sono un genitore anch'io, la preoccupazione è enorme quando penso se mio figlio facesse le cose che ho fatto io non dormirei la notte. Ma quindi non ci penso minimamente a lasciarle fare. Nello stesso tempo, soprattutto all'estero, i ragazzi se ne escono di casa anche solo per andare con un volo low cost in un'isola greca prima dei ragazzi italiani. Si devono scantare, devono cominciare a essere indipendenti un po' prima. Naturalmente che abbiano la testa sulle spalle, lo capiscono i genitori, sono loro che li conoscono, magari non andare da soli, magari andare in gruppi, e anche due sono pochi, in tre, in quattro, perché purtroppo abbiamo visto che succedono a volte delle avventure molto brutte anche essere in due, magari anche avere 20 o 25 anni ti succedono, però incoraggiarli ad andare in questo senso, andare anche in vacanza insieme, insomma dai 16 anni in avanti cominciare un po' a arrangiarsi da soli. E anche un po' il pensiero di Luca, 40 anni da Roma, che ci scrive: lasciatelo andare senza cambi. Noi ci riferivamo al discorso viene con noi, va in vacanza da solo e viene anche con noi. E lo spinello magari possa provarlo per scoprire subito che non è nulla di che. Quindi anche Luca in un certo senso dice bisogna che queste famose prove di volo siano fatte. Vorrei dare la parola a Luigi da Pavia, Sabrina da Pescara, che sono in linea con noi, in modo che possano confrontarsi anche con i nostri ospiti. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi richiamato. Ci racconti? Allora, io penso a una cosa, che prima di tutto i genitori devono fare i genitori. Allora, questa moda di essere amici dei propri figli, secondo me, non funziona. Io devo essere suo padre, non suo amico. Sì. E quindi saper dire di no al momento giusto. Poi penso un'altra cosa, ed è quello che ho impostato con mio figlio, che il discorso deve partire da molto lontano, cioè da quando sono piccoli. Io ho sempre cercato di responsabilizzare mio figlio rendendolo partecipe di tutte le scelte familiari, quindi dandogli tutto l'amore possibile e immaginabile, ma questo non vuol dire sì a prescindere. Mm-hmm. E quindi è cresciuto con questo senso di responsabilità, e tutti i progetti che lui ha in testa li ha sempre proposti in famiglia, sono sempre discussi in famiglia, e fin da piccolo, notando in lui questo senso di piccolo anche di responsabilità, diciamo che tanto per fare un esempio, il suo primo viaggio l'ha fatto a 6 anni da solo con la scuola. Sì. E è stato via 15 giorni, ha cominciato subito da piccolo, insomma, passetto per passetto. Luigi, diamo la libertà ai nostri figli nei tempi, sì, e nei modi che noi genitori, esatto, sappiamo e riteniamo. Per passettino, io sono convinto che le scale vanno fatte un gradino per volta, e ogni tanto c'è il pianerottolo e bisogna fermarsi a riflettere su quello che si è fatto. Mi piace il pianerottolo. Loredana, Oliva, un commento a Luigi e poi passiamo a Sabrina, che mettiamo poi in contatto con Enrico. Assolutamente, è proprio la cosa perfetta, cioè il discorso ideale, cioè il viaggio viene alla fine di un percorso di responsabilizzazione che comincia nella famiglia, quindi che cosa dire d'altro? Cioè questo che bisogna fare, cioè è ovvio che se si è rimasti in casa iperprotetti, attaccati a internet e Facebook, non si è mai fatto un'esperienza di nessun tipo che sia diversa da quella della propria famiglia e dei propri amici, protetti magari un po' troppo, poi si va fuori, si fa altro che spinelli, certo, cioè altro che tatuaggi, cioè ovviamente non si ha l'abitudine all'autocontrollo. Volevo dire una cosa sul progetto, è anche un argomento che aveva cominciato a introdurre Alberto, cioè sulla questione del denaro, cioè anche quello è un discorso che riguarda la responsabilizzazione, nel senso che i nostri ragazzi ricevono dei regali in denaro, ricevono la classica paghetta dai, sì, genitori, ricevono soldi per ricaricare i loro cellulari continuamente, penso, molti soldi a volte, chi più chi meno. Allora bisognerebbe, quando si comincia ad avere voglia di fare un viaggio e quindi di farlo quindi in autonomia, quindi di esercitare la propria libertà, la propria autonomia, fare il proprio fundraising, dico io, cioè cominciare a responsabilizzare e dire: senti, vuoi fare un viaggio tra un anno, per prossima estate? Allora, comincia a mettere i soldi da parte. Io penso che questo sia un tema che avremo modo anche di commentare nel corso della nostra trasmissione. Vorrei, dato che so che Enrico Franceschini è di passaggio e al volo, vorrei un commento da Enrico Franceschini a questo punto. Ma sì, certo, io sono d'accordo con le cose che sono state dette, sia sui soldi sia sul responsabilizzare. Faccio due piccoli distinguo. Uno, certo, dice la paura degli spinelli o cose simili, ma gli spinelli praticamente si fanno non è anche che in città. Nella tua città non te li tirano addosso, cioè anche lì hai dei momenti in cui i genitori non ti guardano. E il secondo argomento, secondo commento che è collegato in un certo senso a questo, il Luigi mi pare che si chiamava, quell'ascoltatore che ha chiamato prima, diceva i genitori devono fare i genitori, non gli amici. Ma io sono d'accordo con lui sul responsabilizzare, ma non vedo niente di male se cioè essere amici dei figli non vuol dire dire sempre sì. Io da un amico mi aspetto anche che mi dica no. No, sono d'accordissimo che i no sono necessari, ma l'importante a mio parere, proprio nel lasciare andare un figlio e nel capire quando è pronto per andarsene, è creare, quello che ho cercato di fare io almeno con mio figlio, confidenza, fiducia, cioè dire che il figlio non ha timore di parlare con i genitori di quello che pensa, di quello che vuole fare, e che viene poi coinvolto, come diceva Luigi, nelle decisioni, cioè certo. In questo senso trattato un po' più da adulto, ecco. Enrico, a proposito di sì e di no, dici di sì, torni a trovarci in una prossima puntata? Torno a trovarci, appena ho scritto un altro libro, dopo voglio l'America, quando voglio qualcos'altro, un altro viaggio ve lo racconterò. Noi ti aspettiamo. Un saluto caro Enrico Franceschini. Questa casa non è un albergo. Oh, bene bene, siamo tornate qua, questa casa non è un albergo, si parla di vacanze, i figli vogliono partire, noi genitori ci pensiamo, perché ci sono tanti aspetti da considerare. In linea con noi abbiamo Loredana Oliva, che tra l'altro ha pubblicato un libro di cui avevamo già parlato, molto interessante, Io invece studio all'estero, dal liceo al master, le città, le università, i paesi. Loredana, abbiamo Sabrina, non riusciamo a recuperarla, allora diamo spazio agli altri ascoltatori. Giuseppe dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Pronti? Ecco, anche io sono qua. Benvenuto Giuseppe. Niente, io volevo portare la mia esperienza dei figli miei. Sì. Io ne ho due, uno di 16 e uno di 13. Sì. Allora, quello di 16 è già 3 anni che va. Ci siamo sempre, però, come suggerimento, appoggiati a una scuola, un'associazione, a qualcuno. Sì. È stata un'esperienza fantastica. Come diceva appunto Loredana Oliva, e quindi il ragazzo si è trovato bene, voi anche? Sì, abbastanza, sì, anche se i costi supero abbondantemente i 1000+ euro. Lo so, sono delle botte. Cioè ne hai di crescita e anche di ragazzo, insomma, vedi che va avanti, insomma, anche come lingua, insomma. Quindi lei, Giuseppe, secondo, che adesso a 13, parte anche lui. Parte anche lui. E quindi per Giuseppe, per lei e sua moglie, un periodo di coppia. Ah, sì. E allora questo è anche un po' l'altro lato della medaglia, no? I figli partono, magari noi abbiamo un po' di ansia, ma si ritorna un pochino più coppia. Alberto. Giuseppe, alcune domande veloci. Partono insieme i figli? Staranno insieme? No, nella... quest'anno no. No, non partono insieme e no, lei quello più piccolo. Quindi lei si sente di dire al genitore che ci ha scritto: serve per la vita e serve anche per la lingua, perché venivano messi in dubbio i risultati sull'efficacia. Beh, per la ragazza sì, gli è stato molto formativo come lingua e anche come, a parte che lei era molto più adattabile. Sì. Il secondo lo mando perché va in Irlanda, è una zona, non l'Inghilterra, sì. Dunque più tranquilla, mi fido di più, mi fido della professoressa che va insieme. Sì. E noi siamo sereni perché oltretutto, cioè, non sono dei ragazzi che hanno quelle, probabilmente parlando che prima, non hanno quelle problematiche di paesi, robe strane, bisogna seguirli da prima. certo. Mandandoli senza avergli parlato, lasciandoli abbandonati, dirgli sì vai e basta, certo. non può essere. Allora Giuseppe, buone vacanze. Buone vacanze ai suoi ragazzi, buone vacanze anche a lei e a sua moglie. Loredana Oliva, a proposito di inglese, tu che insomma sai che come funziona lo studio all'estero, servono questi soggiorni di studio per imparare le lingue? Che cosa dobbiamo aspettarci? Di solito magari alcuni sono brevi, sono molto costosi e sono brevi, 15 giorni. Dunque, allora, se si arriva con un livello di inglese molto molto basso, addirittura non, o con un inglese scolastico, sì. 15 giorni sono davvero pochi, soprattutto se si va in alcune scuole dove ci sono altri italiani, quello è veramente... Quello però sai che è un rischio. Lingua, diventa un'occasione un po' sprecata, allora bisognerebbe un po' indagare e vedere soprattutto come è composta la classe. Ma secondo me sì, queste vacanze sono interessanti, soprattutto per esprimersi in un'altra lingua, per pensare in un'altra lingua. C'era, mi ricordo, il commissario europeo proprio sul multilinguismo che diceva una frase bellissima: sei tante persone quante lingue conosci. Bella, quindi, Alberto. Infatti secondo me sì. è proprio un cambiamento personale. Sì. Quindi ma io non mi aspetterei che si rientri con molti cambiamenti a livello della linguistico, della sì. lingua, no, però si dovrebbe rientrare con un cambiamento culturale, con un cambiamento di approccio proprio in questo senso. Vale l'esperienza, vale moltissimo, devo dire, anche se parliamo di giovani, di ragazzi appunto addirittura di 13, di 14, di 15, fino a, appunto a 17, 18 anni, ma io devo dire che ho parlato con molti selezionatori per quanto riguarda poi le aziende, il futuro. Beh, queste esperienze vengono guardate con molta attenzione. Ecco, Loredana, ci dai un aspetto in più, sì. da considerare. Quindi in un certo senso fanno curriculum. Andrea Cristiano, sì. da Como. Buongiorno Cristiano, benvenuto. Cristiano? Pronto, sono qui. Eccolo, Cristiano, benvenuto. Che cosa ci racconta? Vuole dare un consiglio al nostro papà preoccupato o vuole raccontarci un'esperienza sua? Ma sarei più per il consiglio. Bravo. I miei figli fortunatamente non hanno ancora di questi problemi. Sì. Sono ancora piuttosto piccolini, insomma la più grande ha 10 anni. Ecco, quindi allora non per si il può. Momento questi problemi non li abbiamo ancora. Che poi in realtà se è fatto come è intervenuto l'ascoltatore prima di Treviso, secondo me non sono problemi, nel senso seguiti da una scuola, seguiti da degli insegnanti, dei professionisti, non avrei neppure io un problema a mandarli. Se invece è nei termini in cui veniva espresso nella lettera, qualche dubbio ce l'ho. Sì. Perché mi è sembrato anche un pochino un out-out, no? Come dire, è stato sì, un po' aggressiva come proposta. Un po' aggressiva, esatto. E di conseguenza allora lì mi chiudo un po' a riccio, nel senso, allora io comincerei a porre le mie condizioni, se sei abbastanza grande di andare per andare in vacanza da solo, devi essere abbastanza grande per pagartela, primo, secondo mi dici come, quando, perché, certo. tutto mi spieghi esattamente come vuoi fare la tua vacanza, dire semplicemente voglio andare all'estero perché voglio imparare la lingua. Senza un progetto dietro, a Cristiano, esatto. sono molti, Cristiano, dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, che si allineano alla sua posizione. Alberto, io direi gli ultimi momenti di chiusura, minuti di chiusura della nostra trasmissione, dedichiamoli allora a una sorta di vademecum, ti puoi far aiutare naturalmente da Loredana e poi lanciamo di nuovo l'appuntamento per le nostre mamme. Ma io ho preso un po' di appunti rispetto a cosa ci hanno detto i nostri genitori e anche a cosa hanno scritto, nonostante l'ultimo SMS dice: ho fatto 21 giorni a Londra, ho imparato il romano. Ecco, speriamo che le cose non vadano così. E direi che come genitori noi dovremmo verificare le condizioni del viaggio che sarà affrontato dai nostri figli, cioè abbiamo garanzie rispetto a come viaggiano, dove vanno, chi c'è là, c'è un referente con cui posso mettermi in contatto in caso di difficoltà di mio figlio, oppure fino a che età questo? E questo fino alla maggiore età, cioè il fatto che un figlio diventa maggiorenne lo rende poi capace, certo. di diventare responsabile. Al di sotto della maggiore età siamo sempre noi genitori quelli che saranno attivati per ogni problema si andrà a verificare. trasformerei un viaggio così impegnativo in una conquista. Quindi un figlio in qualche modo se lo deve meritare, un premio così ambito, un'esperienza così importante. E meritarsela vuol dire o averla contrattata rispetto al successo scolastico, che è poi il dovere di un figlio, partecipare finanziariamente all'impresa, se questo è quello che serve. E l'ultima cosa è: una vacanza non può trasformare un figlio. Un figlio va a Londra e continua ad essere il figlio che era anche a casa. Certamente se un figlio responsabile a casa lo sarà anche a Londra, se un figlio irresponsabile a casa non lo sarà nemmeno a Londra o da qualsiasi altra parte del mondo. Perciò, se non vi fidate dei vostri figli, prima conquistate Attendete. La fiducia e poi fateli partire. Ricordo, tanto che saluto Loredana Oliva ringraziandola, Loredana. Soltanto posso dire solo una cosa. Un secondo, volevo dare l'indicazione di una pubblicazione. Molto volentieri, grazie. Che non è la mia, ovviamente. Dunque, si chiama The Gap Year Book. Sì. È una guida in inglese della Lonely Planet. Sì. Dove si parla di gap year, cioè quindi di tutto un anno, però questo anno viene composto da molte esperienze, no? Da molte sezioni che possono durare dai 15 giorni a 2 mesi di vacanze all'estero, e ci sono tantissime proposte interessanti, alcune fantasiose, addirittura grazie. In Tasmania, sull'ambiente. Grazie Loredana, questo belle. È sicuramente un aiuto. Un'altra proposta la facciamo noi in chiusura velocemente alle mamme in ascolto di bambini che vogliono visitare il sito blogmamma.it e votare i temi che diventeranno protagonisti della puntata di martedì di Essere Benessere. Alberto, salutiamoci in rapidità. Un saluto a tutti da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.